disco. La celebrità talvolta mi stupisco dei saluti per la strada. Occhiate, mi volto di là e provo imbarazzo per la popolarità. Eppure sono popolare, ho una casa popolare, un quartiere popolare, la mia famiglia popolare, la mia storia popolare, mio cognome popolare, io mi sento orso polare in un mondo di zanzare. Carta, pietra, forbice, carta, pietra, forbice, spray, capelli, doppie punte, shampoo, balsamo, crema, antilunghe, cellulite. Io cerco ad ogni costo uno stile originale, immagino ed imposto la mia tonalità, per questo mi stupisco di quanto sia normale l'immagine rifletta di un soggetto popolare. Pure sono popolare, ho una casa popolare, un quartiere popolare, la mia famiglia popolare, la mia storia popolare, mio cognome popolare, io mi sento orso polare in un mondo di zanzare, io mi sento orso polare in un mondo di zanzare. Popolare, popolare, popolare, popolare, popolare, popolare, popolare, popolare, popolare.